Africa. Conosco persone, persone mute e loquaci, timide e audaci, umili e arroganti. Persone che vivono obbedienti come pecore e altri che si nascondono a tradimento come le iene. conosco persone che sognano senza immaginazione e vivono senza sognare. Le persone i cui occhi sono usati per fissare in basso e le cui orecchie sono usate per prendere ordini come svegliarsi, lavoro, pagare, acquistare, credere, rispettare. La gente sola nella folla che pazientemente attende in fin di vita, che per l'eterno domani, per i giorni migliori, il futuro ottimista, le risposte alle loro preghiere. Stanno aspettando di credere in ogni potenziale salvatore e in ogni ingannatore del pensiero che promette loro una vita migliore. Ma quelli che aspettano di vivere un domani migliore sono oggi già morti. Conosco la gente, ma solo pochi di loro sono i miei compagni. Morte lenta o insurrezione qui e ora. Questi sono i due percorsi che si dipanano davanti a noi. Abbiamo scelto di essere là, dove i più forti osano. L'aria è pulita e la folla che si inchina di fronte ai suoi falsi idoli non rende brutto il nostro aspetto. È bello guardare giù dalla cima della montagna dell'unico, anche se la folla desidera segretamente che tu cada nel baratro in modo che essa non si vergogni della sua bassa statura. Le nostre parole tagliano oggi come una lama e le nostre azioni bruciano i ponti con il passato, con tenacia e volontà, fino a quando uccideremo l'autorità per Nicola e Alfredo, per gli anarchici di Prassi, i membri della cospirazione delle cellule di fuoco, unitamente con Zavadidis Andreas, membro della FAI IRF, e l'anarchico nichilista Mandilas Piros. E questo era il testo che ci fanno avere direttamente i compagni del CCF, anche già tradotto in italiano, quasi tradotto, qualcosa l'ho dovuto correggere, però comunque una buona traduzione, sanno, i compagni sanno parlare anche l'italiano, cioè non è una lingua che tocca imparare per forza, anzi se la possiamo dimenticare anche noi che viviamo in Italia, meglio, tanto meglio. Allora, la diretta d'azione inizia oggi così, in questo modo, con questo testo dei compagni greci, in solidarietà per Alfredo e Nicola, per i quali ci sarà processo dopo domani, il 30 ottobre. L'appuntamento lo trovate sul blog di Radio Azione, sotto l'articolo I conti non tornano. Quindi, per chi vuole esserci, e spero in tardi, l'appuntamento è fissato là. Ora ci ascoltiamo un brano prima di passare subito alla diretta di azione di oggi, che tratterà di sia di conti di formazione ovviamente, ma anche di letture e di musica. Quindi ci ascoltiamo un brano e poi dopo subito si parte con la lettura della Zantraglia e Marcello. Que antistanti il porto israeliano di Ashdod. Una settimana fa ci eravamo lasciati con le avventure del nostro protagonista all'interno di questo porto militarizzato, di questo porto di Israele, paese normale, di un paese che presenta tutte le contraddizioni che siamo abituati a vedere in Occidente e che non siamo abituati a vedere invece nel Medio Oriente contemporaneo. Torniamo a bordo e adesso parliamo della Cambusa. Nel porto di Ashdod, la gru di Murat ha tirato a bordo tre reti cariche di provviste arrivate dai mercati generali di Tel Aviv. Tutta roba fresca. Dove cazzo sono gli straccetti? Dove cazzo sono? Possibile mai? Io ho indicato ogni cosa per iscritto. Mi servivano gli straccetti di bue. E dove sono questi maledetti straccetti? E il filetto, le fettine? Ma dico io, sti ebrei! Sento imprecare dagli oblò della Cambusa in un tono che più che adirato sembra incazzato nero. Il cuoco ha preso finalmente visione dei rifornimenti. Ogni paese ha il suo modo di tagliare la carne e in Israele straccetti, lombate e altri tagli a noi familiari sono semplicemente sconosciuti. Per cui Giovanni, il cuoco, gira e rigira intorno al blocco sanguinolento che si trova costretto a sfilettare di suo pugno grazie ai coltellacci affilati che pendono da una sporta della dispensa. In Cambusa lavorano Giovanni, appunto il cuoco, il cameriere e il mozzo di cucina. Tutti e tre mettono in tavola tre pasti al giorno a tutto l'equipaggio, alle 7 del mattino, a mezzogiorno e alle 19. Ci sono due sale da pranzo separate, una per i marinai e l'altra per gli ufficiali. Il pane è uguale per tutti, infornato prima dell'alba dal cuoco in persona, che si occupa anche dell'impasto poiché preferisce evitare quello preconfezionato fornito dalla società. Il menù del giorno è uguale in entrambe le sale, ma la presenza di molti marinai stranieri stimola a variare ingredienti e portate. Aromi, spezie e condimenti esotici arricchiscono l'inventario di profumi che aleggia nel corridoio antistante alla Gambusa. Ogni mese si caricano cassette da 20 kg di pesce, quarti di bue, decine di chili di frutta e verdura. Il rifornimento avviene prevalentemente nel porto base, che per noi significa Anversa in Belgio. Talvolta, come ad Ashdod, si rimpinguono le provviste, ma solo quando si rischia di raschiare il fondo delle conserve. Ogni porto ha le sue specialità. In Israele, per esempio, si compra il riso, in Turchia la frutta, in Italia la carne, in Inghilterra le patate e così via. Ogni cuoco di bordo conosce i segreti degli approdi. Vino e alcol sono severamente proibiti a bordo. Alla domenica, quando si fa la pizza, viene servita la birra analcolica, uno schifo, ma giusto per avere il sapore in bocca. Tutti i membri dell'equipaggio però diventano degli intenditori di acque minerali. D'altra parte, il tempo dell'imbarco di ciascuno si può misurare attraverso il numero di bottiglie di plastica accumulate sotto i letti delle cabine, ognuna con un'etichetta diversa: acque italiane, turche, israeliane, belghe. In mare si diventa sommelier di acqua dolce. Le bottiglie si conservano perché sono tra i rifiuti che è vietato gettare fuori bordo. Non tutti gli scarti sono uguali. Il mare è un'enorme discarica, i milioni di oggetti abbandonati, i relitti, le cose futili, minuti o ingombranti, smossi dalle correnti sottomarine, sono i reperti di una possibile archeologia del moderno. Per lo sversamento dei rifiuti, dagli oli esausti della macchina agli escrementi umani, le navi seguono regole precise che indicano in particolare il rispetto delle distanze dalla costa. Gli imballaggi si gettano fuori bordo a non meno di 25 miglia nautiche dalla costa. Carta, vetro, stracci a 12 miglia, ma quando sono triturati bastano soltanto 3 miglia. Gli scarti di cibo a 12 miglia. Certo, queste sono indicazioni formali e spesso non rispettate, soprattutto quando si tratta di lavare le cisterne e i serbatoi e avvelenare il mare con i residui di idrocarburi. Di notte la Gambusa resta aperta per lo spuntino del cambio di guarda. Il cibo in frigo resta però alla mercé di ufficiali e marinai affamati, fuori servizio, e per coloro che lavorano resta una bocca asciutta. E allora si ricorre alle provviste private. Melanzane sott'olio, pomodori secchi, dolciumi e salami compaiono di soppiatto sui tavoli vuoti della sala da pranzo, e qualche volta ci scappa anche un sorso di vino paesano. La Gambusa resta inquieta il pomeriggio quando il cuoco dorme, il mozzo filippino si rinchiude in cabina e il cameriere Fernando si mette a fumare e rimuginare su uno dei ponti. Lui il mare l'ho conosciuto da vicino, a bordo dei barchini veloci che trasportavano sigarette di contrabbando dalla nave madre a largo di Capri fino alla costiera di Torre del Greco, dove continua a vivere con i suoi due figli e la moglie, una delle tante Penelope in attesa del rientro del marinaio. Quello era un lavoro duro da fare. Nelle notti senza luna, d'inverno e d'estate, quando il mare sembra un elemento nero dell'ignoto, dalle barche di sigarette è passato alle barche per la raccolta dei datteri di scoglio, i succulenti frutti di mare nascosti nella pietra dei fondali. Pescarli è proibito, perché per tirarli fuori si distrugge la roccia sottomarina in maniera irrimediabile. I datteri infatti crescono dentro la roccia, ma si tradiscono con le bollicine di ossigeno che emettono a cadenza fissa. I pescatori si allenano a osservare i minuscoli respiri per poi procedere allo sventramento degli scogli. Il gusto, quello vero, porta devastazione. Fernando è stato pescatore di frodo per un bel po', poi ha cercato una via meno impervia nel settore della ristorazione. È diventato un caposala, un maître dalla precisione maniacale. I ristoranti della sua zona erano delle grandi ville per ricevimenti, costruiti con investimenti ambigui e incerti. Un bel giorno il suo datore di lavoro è sparito, lasciandosi dietro debiti e i sigilli della magistratura. E allora per lui l'unica prospettiva è stato l'imbarco, come cameriere al servizio dei naviganti. Il suo primo imbarco è durato una decina d'anni, poi Fernando ha aperto una piccola trattoria e un allevamento di conigli. La specialità della cucina era il coniglio all'ischitana cucinato con il pomodoro e la salvia. Un'attività a terra è il desiderio di molti marittimi, Chi sogna un ferramenta, chi un'officina, chi un alimentari, chi una sala per le scommesse, tutti vogliono uno spazio fermo, quattro mura immobili che diano anche un po' di reddito, da cui non allontanarsi più. Proprio come Fernando, al quale però la crisi, l'inflazione, i debiti, gli usurai e i crediti mai riscossi hanno riaperto la via del mare. Adesso Fernando passa il tempo guardando il mare, all'aperto, incurante di caldo, freddo, anzi, felice di sottrarsi all'aria stantia e gelida del condizionatore o a quella molle asfissiante del riscaldamento. Se Fernando mostra un'indole malinconica, Giovanni il cuoco invece è un tipo grintoso, tarchiato, sempre vestito di bianco, i capelli radi e i modi spiccioli, e me lo ritrovai addosso nel tentativo di dirimere una piccola incomprensione tra lui e John, il terzo ufficiale, a proposito del consumo notturno di pane e di bevande. Eravamo tra Cipro e Israele e la cosa non fu semplice, dovetti sudare un bel po'. Anche egli editore del Greco, e il cuoco è da sempre un gran lavoratore. Dagli 8 agli 11 anni è stato uno dei tanti bambini della costiera vesuviana a lavorare il corallo, di cui ai tempi il fondale era ricco. Prendeva 200 lire al pezzo. Le sue manine di bimbo, adatte ai lavori di precisione, ne riuscivano a fare anche 20 di pezzi. Poi, finito il corallo, esaurito dalle razzie senza criterio dei corallari locali, è passato alla lavorazione dell'avorio. Lavorava immerso nella polvere del taglio. Le uniche protezioni erano delle buste di cellofan in cui infilava le braccia. Era molto abile a incidere i camei, eleganti gioielli di altri tempi. Poi anche la lavorazione dell'avorio entrò in crisi, come sostiene lui in termini crudi, per colpa di quegli elefanti maledetti che non si riproducevano abbastanza. Mo scopavano e il lavoro è finito. Quindi ha imparato il mestiere di beccaio. È diventato ammattatore e infine banconista, le tre specializzazioni del macellaio. Ma non trovò una macelleria disponibile e si imbarcò come mozzo di Cambusa. Il cuoco, pur oscillando tra Cambusa e cucina, è diventato un uomo di mare, ha doppiato per tre volte lo stretto di Magellano, ha attraversato lo stretto di Panama, ha visto i due oceani e ne ha sofferto le infernali tempeste. Dalla sua cucina ha odiato il mare agitato, mentre i viveri volavano dappertutto, latte di conserve esplodevano sul pavimento e la frutta si sfracellava sull'alluminio delle onde, accompagnato dal rumoroso rollio delle onde. Fumiamo dopo l'ultima cena servita e si tradisce un paio di volte con commenti su quello che abbiamo appena finito di mangiare. Non volendo mi chiarisce l'origine del sapore di stoppa che ritorna in molti piatti. A bordo i pesci invecchiano a meno 10 nelle celle frigorifere che vengono aperte una volta al giorno. La porta della cella resta spalancata per 4-5 minuti, tempo sufficiente a iniziare un principio di scongelamento che, seppur minimo, incide sulla tenuta dei vari alimenti. Per cui i cibi si guastano e il sapore si inguaia. Quella di Giovanni è una tesi arguta, costruita con l'esperienza e con un tocco di indolenza. Se il sapore è quello che è, non è certo per responsabilità del cuoco. Per il cuoco la cosa più importante è il buongiorno e il buonasera. Se non si saluta quando ci si incontra tutti i giorni, allora si rischia la barbarie. Parla mentre immerge il naso nella grande padella consumata che sfrigola sul fuoco, aggiunge curry e chiodi di garofano leccandosi i baffi folti. Cucina un piatto ibrido, a metà, tra risotto allo zafferano e pollo al curry. Lo ha imparato da un collega indiano. Why then? loro erano Blood Red Dead con il brano Water, nemmeno fa la posta, si cerca sempre qualche brano attinente alla lettura. Invece ora si torna qui con la controinformazione, con una notizia che ci arriva da Temuco, a Cile, dove c'è stata la soluzione per la compagna Rossana Marin. Ricordiamo che c'era nella scorsa primavera, c'erano stati questi arresti in Cile, erano state arrestate tre compagne, Rossana, Yaritza e Ariadna. Yaritza e Ariadna hanno deciso per il rito abbreviato e sono state condannate poco più di un mese fa. Invece Rossana, che ha deciso la strada, l'iter processuale normale, rigettando tutte le accuse della magistratura, è stata assolta. Leggiamo il comunicato che ci fanno avere i compagni di Pubblicazione Refrattario. Allora, la compagna Rossana Marin è stata arrestata il 28 marzo a seguito di un'operazione simultanea nella città di Temuco. La polizia la accusava di fabbricazione e collocazione di un ordigno esplosivo in base alla legge sul controllo delle armi, trasferendola poi nel carcere femminile di Temuco insieme a Yaritza e Ariadna. Il 2 maggio la compagna ha ottenuto i domiciliari a causa dell'avanzata gravidanza, era a sesto mese quando era stata arrestata, mentre il processo era ancora in corso. In questo contesto è nato il figlio, tra i controlli di polizia a casa, fascicoli, montature e tentativi di mediazione da parte della procura. Dopo la condanna di Yaritza e Ariadna, avvenuta il 3 settembre tramite giudizio abbreviato, dove le due hanno rivendicato il possesso e la collocazione di ordigni esplosivi, la compagna Rossana Marin ha rifiutato la proposta della procura, continuando a rigettare le accuse. Il 3 ottobre la compagna è stata prosciolta definitivamente da tutte le accuse. Salutiamo Rossana, la sua forza, suo figlio e la sua condotta ostile alle proposte della procura. Questo era il comunicato che ci facevano avere i compagni di Pubblicazione Refrattario. Questo è il periodo di processi, ottobre è un periodo di processi, poi dopo ne andiamo anche un po' più nell'approfondimento, perché anche in Italia tra qualche giorno, dove ci sarà il processo per Frida Nicola, a novembre ci sarà l'udienza preliminare per l'Ardire, insomma un bel po' di sfighe che vengono al pettine attraverso i processi. Ora ci ascoltiamo un brano, il brano di Dambalova, poi torniamo qua con la lettura della Zandraia e Marcello. I'm gonna be the man who goes along with you. And if I get drunk, yes, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I hear her, whatever that means, I'm gonna be the man who's ever ready, yo. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, E allora, le 17:38 secondo l'orologio. Secondo l'orologio di Radio Azione, speriamo che coincida con quello di chi ci sta ascoltando, ma anche che non coincida, che significa che ci ascoltano da altrove. Da ci abbiamo continenti. L'orologio illegale noi. Gli altri mettono l'ora legale, noi abbiamo l'orologio. Noi ci adattiamo illegalmente all'ora, nonostante tutto, nonostante il buio. Torniamo per mare, torniamo nella lettura e adesso parliamo di bestie. Bestie di terra, di cielo e di mare. Ce ne stiamo al sole su una sdraio a contare le piattaforme petrolifere che puntellano la rotta verso Alessandria d'Egitto. Sembrano dei polpi di metallo dai tentacoli di ferro. Sono tante. Lì sopra c'è della gente di mare immobile. Le contiamo, riparandoci dal vento in un angolo del ponte dove subiamo un martirio da zanzare molto veloci e scaltre. Queste, insieme alle rare mosche ronzanti della zona cambusa, alle falene timide acquattate nelle plafoniere dei neon e ai vermi grossi nascosti nei tubi di scarico, sono gli insetti prigionieri del cargo. Arrivano a bordo nei pressi della costa o all'ormeggio e alla ripartenza restano senza la possibilità di sganciarsi e di volare a terra. La guerra di corsa dei container fa prigionieri di tutti i tipi. Ancora nei primi anni 90 si portavano a bordo animali vivi per poi trasformarli in arrosto e fettine. Si imbarcavano ad esempio 2 o 3 maialini con le zampe legate, imbracate in una rete, tirandoli su con la gru. A bordo si sistemavano in un recinto improvvisato sul ponte di coperta. In mare aperto, la stessa gru issava a turno una bestia a mezz'aria per le zampe e i marinai la squartavano. Il taglio della giugulare toccava per tradizione al nostromo. Capitava che il taglio però non fosse fatto a regola d'arte, che la bestia si iniziasse a dimenare fino a liberarsi e correre per tutto il ponte, e allora l'equipaggio finiva il macello a colpi di sbarre di ferro e lanci precisi di twist lock. Altre bestie di terra in mare sono le galline. Pollai improvvisati sono sorti nei ponti inferiori delle prime portacontenitori o nelle sezioni riparate delle navi cisterna. Uova, brodo e pollo arrosto. Le galline si decapitavano con un taglio netto al collo nei locali di cambusa e si gettava poi subito dopo il corpo nell'acqua bollente. Ma capitava che il corpo continuasse a vivere e una volta toccata terra si mettesse a correre per tutta la cucina schizzando sangue dal collo tranciato. Sorte simile, anche se dai risvolti meno macabri, toccava ai conigli, che non tutti i palati apprezzano. I marinai e le bestie si fanno compagnia, in molti si affezionavano agli allevamenti galleggianti e quindi ogni macello diventava uno strazio. Al tempo dei container i cargo hanno una loro fauna peculiare. I topi imbarcano nascondendosi nei fusti delle palme esportate dal Maghreb o invece infestano le stive del grano importato dal Mar Nero. A bordo di un cargo come il nostro il topo avvita grama. Per arrivare al cibo deve attraversare ben 10 garage. I container non si rosicchiano e le automobili, la loro gomma e il loro metallo, non sono nutrienti. Niente più sacchi da sgraffignare, spezie da succhiare, carichi di zucchero dove riprodursi. Il dolce e il salato viaggiano sigillati in lattine imballate nel cartone duro, incastrate e protette dalle pareti di un container. Il cibo in frigo è irraggiungibile. La nave quindi resta uno spazio asettico nel suo inevitabile lerciume, un terreno minato per i topi clandestini. I topi e i ratti sono selvatici, quasi sempre incontrollabili, mentre i pappagallini sono docili e più gestibili, e poi hanno anche quell'indola malinconica, sedentaria, una qualità cara ai naviganti. E non di rado i mercantili ospitano voliere ricavate nelle cabine doccia in plexiglass, una gabbia luminosa ma non trasparente, per cui gli uccelli diventano presto moggi e non cantano più. La merda si pulisce a turno perché le bestie, quelle bestie gli uccellini, appartengono a tutti e a nessuno. I pappagallini hanno anche un altro pregio, quello di essere rivenduti a terra come uccelli esotici provenienti da chissà dove, un mistero che ne fa lievitare il prezzo. Non potendo portare a bordo i cavalli su cui scommettere, in mare si inventano altri tipi di competizioni. Il Gran Premio delle Tartarughe, per esempio, è un tipo di gara che richiede poco spazio. Si montano delle piccole corsie nei corridoi di linoleum della coperta usando pezzi di legno sagomato, oppure, per segnare percorsi più articolati e curvilini, si ritagliano dei serpentoni di spugna adesiva più malleabili. Le migliori velociste sono le tartarughe del Madagascar, dal guscio più leggero. I piccoli anfibi corrono seguendo l'esca di una foglia di lattuga che pende vicinissima alla bocca, ma che non raggiungono mai, se non dopo aver vinto la competizione. I marinai hanno cura che le bestie non ricevono cibo i giorni precedenti alla competizione, in modo da renderle più scattanti nella corsa. Si puntano sigarette, bibite, mai denaro. Anche a bordo d'azzardo si gioca protetti dal buio. Le bestioline poi riposano in vaschette con palme di plastica rosa e blu, non andando oltre l'orizzonte del comodino della cabina. Per loro, pur trovandosi a largo, il mare non esiste. Invece a largo i gabbiani non si spingono. Ci arrivano però i falchi di mare in escursioni solitarie ad alta quota. Planano sui cargo e si piazzano a prua, si arpionano al pennone anteriore dove sventolano le bandiere. Indicano la rotta al timoniere e svelano la direzione del vento. A volte volano proprio fuori dai finestrini della plancia. Sono cacciatori e si stancano presto del ferro e portano il becco da un'altra parte. Altri uccelli arrivano in stormi, guardano la nave dall'alto, fieri nella loro migrazione. Le rotte marine coincidono con i percorsi migratori, del caldo al freddo, dal freddo al caldo, e sempre viceversa. Gli uccelli si stancano e alcuni prendono un passaggio, si posano sul ponte esterno, sulle antenne del radar e si lasciano trasportare per un po', per recuperare le forze e per poi riprendere il volo. Così i cargo hanno compagnia dal cielo, che cambia ad ogni stagione. D'inverno stormi di aironi cenerini, di garzette, di nitticore e anatre marzaiole, di canapiglie e mestoloni dal capoverde, di codoni e di fischioni seguono la linea costiera tentando delle sortite al largo. Tra mare e cielo appaiono anche delle sporadiche macchie degli stormi di piropiro o un piccolo lumicolo migratore che pendola tra Nord Europa e Asia, attraversando il Mediterraneo. Arriva basso sull'acqua con battiti d'ala poco profondi e capace di planate molto lunghe che finiscono in veloce immersione subacquee. Quando vola rasente la nave, il suo acuto canto tui, tui, tui, si insinua nel borbottio perenne della macchina. Ci sono anche gli uccelli gregari, meno solitari, come il combattente, unico per il suo piumaggio colorato. D'inverno assume il color seppe nelle parti superiori e bruno cenere sul petto. In estate invece le penne del collo si allungano e formano un ampio collare che può essere rosso, bianco, nero, ghiacciato o barrato, mentre le piume del capo formano una particolare cresta erettile. Il combattente vola rapido con battiti d'ala regolari. Forse sono i più vecchi a usare i cargo come piazzole di sosta e movimento. Seguono le navi anche le pettegolo, le avocette, le pavoncelle, le pernici di mare e le beccaccine marine, che sono anche la gioia dei bracconieri dell'Europa del Sud. Più di rado si scorge la sagoma allungata e inconfondibile del cormorano, detto anche marangone, che sverna seguendo il tepore del clima. Ma non ha un vero e proprio passo migratorio. La loro venuta è imprevedibile. Si distinguono in cielo dagli stormi della formazione romboidale. A distanza sembra completamente nero, anche se le sue piume sono un caleidoscopio di sfumature metalliche, soprattutto le ali. Quando è in volo, il collo è tenuto disteso, leggermente al di sopra della linea del corpo, ma quando ammara, nuota con il corpo basso sull'acqua e con il becco rivolto sempre all'insù. È un uccello del mare, abilissimo pescatore, anche in virtù del piumaggio permeabile che gli permette delle lunghe immersioni. Il cormorano cattura grandi quantità di pesce e questo suo talento innato gli procura l'ostilità dei pescatori allevatori ittici. Le loro proteste sono riuscite a far autorizzare dall'Unione Europea, pensate, cicli di abbattimenti controllati. In Asia, nelle isole malesi, nella zona del Golfo Indiano, i cormorani vengono addirittura addomesticati e, dopo avergli applicato un anello di metallo attorno al corpo per impedirne la deglutizione, sono mandati a pesca. I cormorani non amano il cattivo tempo. Quando spariscono, e segno di tempesta. Passano il loro tempo alla ricerca del sole perché privi della ghiandola uropigea tra il dorso e la coda, che produce una secrezione che rende impermeabili le piume e le penne nella maggior parte degli uccelli acquatici. A largo si ha l'impressione di essere soli, ma non lo si è. È un continuo esercizio di irrobustimento dei sensi, quello che poi permette di rilevare particolari nascosti in una scena che sembra non cambiare mai. Si sviluppano altri punti di riferimento, più certi e meno mutevoli, come le stelle di notte. Guardare il mare inganna. Il suo movimento perenne nasconde tutti gli altri. Non lontano da Alessandria ci saltano intorno i delfini disposti alle ali della chiglia che ci accompagnano per un tratto. I delfini, i narvali, gli storioni beluga da cui si produce il miglior caviale del mondo sono mammiferi delle stesse dimensioni del tonno rosso e di quello dalle pinne gialle ma dalle carni meno prelibate. Le reti delle tonnare moderne delle navi fattoria giapponesi, impegnate nella guerra della pesca, massacrano tutto ciò che incappa nelle reti senza distinzione di specie. Del pescato non si butta niente, ciò che resta si sminuzza, si secca e poi si vende o si utilizza per i preparati precotti a base di pesce o per concimi speciali per l'agricoltura. Gli squali di piccole dimensioni ci sono sempre stati nel Mediterraneo, ma di quelli non aggressivi, anestetizzati dai fondali troppo poco profondi. Da quando la qualità del mare peggiora, la sua popolazione, dalle balene fino al plankton, diminuisce e alcuni pesci predatori, sfuggendo alla loro natura oceanica, passano Suez e Gibilterra ed entrano nel Mediterraneo seguendo la scia delle navi e dei loro rifiuti. Le navi porta bestiame alimentano la transumanza marina e la con la cattiva abitudine di gettare animali morti o feriti fuori bordo, che diventano pasti inaspettati e succulenti per quei pesci che ne seguono la scia di sangue. Da bordo si pesca, si fa la pesca di altura, mi ha raccontato un marittimo dalla voce roca. Sulle navi cargo, sulle cisterne, sulle petroliere e sullo bulk carrier della linea di galleggiamento molto bassa, ancora oggi qualcuno butta la lenza. Il metodo rimane sempre uguale. Uno dei meccanici lavora al tornio degli ami lunghi, robusti, acuminati che, annodati a del nano non resistente e assicurato ad una cima, vengono calati in acqua da poppa. Si riproduce il principio della pesca a traino, ma su una scala improvvisata. Il pescato, una volta sventrato e ripulito dall'interno, ora si vende o si baratta con i cuochi di bordo che pagano con soldi dell'armatore. Sui cargo greci, l'interiore di tonni e delfini le arrostiscono sul ponte nei giorni di festa. Lo stomaco, l'intestino e le branchie, da quelle parti, sono una parte pregiata del pesce. Una delizia da pescatori di frodo. Yeah. E loro erano That Politics con il brano This Way. Ora si continua con la controinformazione, diamo due notizie brevi, sono notizie comunque pure un pochino datate di questi giorni. Penso che chi ascolta la radio, chi segue il blog o si segue altri siti ne abbia già potuto avere visione, già ne ha conoscenza, tipo del trasferimento di Gianluca, compagno che era stato arrestato il 19 settembre insieme ad Adriano, praticamente nella giornata del 22 ottobre abbiamo appreso che Gianluca è stato trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a quello di Alessandria San Michele, qui intendovi ancora una sezione AS2 dove sono reclusi altri compagni anarchici. Probabilmente tale trasferimento è dovuto al divieto di incontro nei confronti di Adriano. Per scrivergli è Gianluca Iacovacci, via Casale 50/A 15122 San Michele, Alessandria. Questo è una novità, perché praticamente gli ultimi arresti per quanto riguarda reati relativi a quello che loro chiamano terrorismo li stavano trasferendo tutti a Ferrara, nell'AS2 di Ferrara. Adriano, Gianluca, non si sa perché. Nel testo i compagni che ci fanno sapere la notizia dicono per evitare di farlo incontrare con Adriano, ma non si sa qual è il gioco sporco della magistratura, perché hanno deciso Alessandria e non Ferrara, quando poi a Ferrara c'erano tutti quelli dell'Ardire, ci sono Alfredo e Nicola arrestati per lo stesso caso, e non capisco perché Adriano e Gianluca non potevano stare nello stesso carcere. Questi sono i giochetti della magistratura. Invece un'altra notizia per quanto riguarda processi, l'operazione Shadows, sono stati assolti tutti i compagni. Il 22 ottobre presso il Tribunale di Perugia è stata emessa la sentenza di primo grado in merito alla cosiddetta operazione Shadow. L'impianto accusatorio è crollato interamente, tutti i compagni sono stati assolti perché il fatto non sussiste, ad eccezione di Sergio Maria Stefani, condannato a 3 anni e 3 mesi per furto d'auto. Adesso la PM Comodino, distintasi come al solito per i suoi deliri in aula, stavolta prontamente contrastati dal compagno Sergio, che ha partecipato al processo, istantaneamente denunciato da lei per oltraggio, ha 90 giorni per impugnare la sentenza e presentare ricorso in appello. Sergio resta prigioniere nel carcere di Ferrara in custodia cautelare per via dell'operazione Ardire, partorita sempre dalla Comodi. Mentre il 6 novembre ci sarà sempre al Tribunale di Perugia l'udienza preliminare dell'operazione Ardire relativa a Troncone e Perugino. Solidarietà ai compagni indagati e detenuti. Si diceva per il 6 novembre c'era l'udienza preliminare solo per quella di Perugia, quindi che non prevede tutti i compagni, perché alcuni erano passati sotto la procura di Milano, in quanto la procura di Milano si interessa per fatti di terrorismo e la procura di Perugia no. Queste erano le due notizie brevi. Ora ci ascoltiamo un brano di Anne Clark, il brano è Full Moon, poi dopo si torna qui con la lettura della Zandraglia con Marcello. Thank you. head into a deep blue pillow of sound. Music's echo of time, resonating round. Comet trails like horses' tails ride an endless night. Beyond the coming morning, beyond the coming lights. All around us, a great big book of wonder. The earth we walk, the sky we're under. These moments are mine, they belong to me. I bathe in lunar waters, sea of tranquility. The man in the moon is watching you and me and everything we do. Life on Mars, the stairway to the stars. Cheap flights, fast food, flash cars. Worlds collide, states divide. Choose your side. Landslides, third rock from the sun. It's only just begun for you and me and everyone. Scorched earth catches fire, it finds no relief. Can we find it in ourselves, ever to conceive? As cities choke and islands disappear in smoke, that maybe what we're doing in some way could provoke. Although all forms are shifting as nature makes its way, the speed of change we're forcing tears our souls away. The moon is full, the river's high. What will become of you and I? Questa era Anne Clark con il brano Full Moon, e Under the Full Moon arriviamo ad Alessandria, che non è la sezione del carcere, ma è Alessandria d'Egitto, o anche detta The Marlboro Country. Le boe luminose dell'entrata del porto di Alessandria d'Egitto sono lì che lampeggiano. Tratteggiano un sentiero nel mare. Il porto, infatti, è ancora lontano. Dalla plancia della nave scruto l'orizzonte con gli occhi affossati nel binocolo. Non è ancora buio, non è ancora giorno, siamo al crepuscolo. Prima di ormeggiare c'è il fiordo del cimitero delle navi da attraversare. La costa egiziana è una linea di luce che si confonde nel buio, una linea della fortuna che si scompone in mille rivoli di luce verso l'entroterra. Un mercantile è disteso sull'acqua, ci passa di fianco, è illuminato da fari arancioni. Il port control ci dà il via libera, aspettiamo il pilota. In lontananza si distinguono le architetture lontane della stazione marittima. Entriamo navigando piano, adagio. La porta della biscaglina è già aperta, la pilotina ci affianca, il pilota è un tipo mingherlino dai modi eleganti e ci traghetta in porto. Aleikum al salam, master. Se ne va stringendo sotto l'ascella destra due stecche di Marlboro. la radio gracchia. Don't forget the cigarettes for port control. Ma è già troppo tardi, il pilota è già via. E noi dopo 10 minuti siamo ancora lì, non procediamo. La pilotina non si stacca, non molla le cime. Aspetta le sigarette per il port control. Quelle regalate al pilota mica bastano per tutti, bastano solo per lui. L'Egitto è il Marlboro Country. E non per i suoi paesaggi suggestivi e già abbondantemente venduti in foto patinate. In porto ogni procedura viene oliata con le sigarette. Come in tutto il Mediterraneo, d'altra parte, soltanto che ad Alessandria la cosa assume dimensioni grottesche. Il regalo delle sigarette diventa una mimica, una gestualità particolare che richiede una cortesia molto simile alla tracotanza dell'Italia meridionale, ma con un po' più di stile, a dir la verità. Dopo una complessa manovra di ancoraggio, ormeggiamo di fianco ad una porta contenitori turca che sonnecchia sotto due gru maldestre e silenti. Le fiamme delle raffinerie brillano in lontananza. Il porto, nonostante il buio, non nasconde la sua grandezza e il suo disordine. Alessandria è poco più in là, ancora orgogliosa del faro, una delle vecchie 7 meraviglie del mondo e del suo passato imperiale. Il brusio del traffico arriva fino al ponte di coperta. La rampa abbassata resta silente, sorvegliata da 2 soldati dell'esercito egiziano. Nessuno di noi può scendere a terra prima dello sbrigo delle formalità doganali e quindi restiamo sulla soglia della nave e vediamo la mano portuale già pronta a salire a bordo. Quelli egiziani sono i portuali diversi da tutti gli altri. Non hanno scarponi pesanti, niente tute da lavoro, niente pettorine e nessun casco. Indossano invece vestiti eleganti, camicie bianche e giacche scure, hanno i capelli ben pettinati, calzano mocassini dalla suola di legno scivolosa, alcuni portano un cappello di lana, altri giocano incessantemente con il rosario dei musulmani, snocciolano le pietre tra le dita mormorando sottovoce. Giovani e vecchi sono simili, hanno la stessa patina di eleganza sdrucita dei loro vestiti. Ad Alessandria il reclutamento dei portuali è in mano ai caporali che applicano con la loro personale discrezione. Non è una professione, non ci sono corporazioni, né organizzazioni, né compagnie uniche. Di buon mattino, nei pressi dei varchi del porto commerciale, si assembra una piccola folla. Aspettano i sensali delle diverse aziende titolari dei moli, poi si accapigliano per entrare nella cerchia di assunzioni della giornata. Chi non riesce si sposta al mercato ortofrutticolo o cerca un'altra occupazione giornaliera nella vischiosa economia informale della città. Finalmente iniziamo lo scarico. La rampa traballa mentre ridiscendono le pale meccaniche, i caterpillar, i macchinari pesanti per l'agricoltura, l'Jeep Toyota dal cassone americano e le Land Rover di seconda mano. La rampa traballa sotto il peso dei mezzi pesanti. Il rumore sordo copre a malapena le urla dei portuali disorientati dagli ordini imprecisi dei capi squadra. Gli improperi rocchi dell'arabo si mischiano ai suoni irripetibili che la brezza produce entrando nei meandri del garage. Dal carico si intuiscono gli standard e le vicissitudini economiche di un intero paese. Noi, per canto nostro, sorvegliamo l'ennesimo rally di bordo, ci disponiamo a schiera sulla rampa per impedire il continuo andirivieni di persone non autorizzati, le cosiddette UP, Unauthorized Person, che tentano brevi escursioni nei garage. Chi in un modo, chi in un altro, tutti ci chiedono sigarette. Ne offro varie in giro. Il primo pacchetto mi finisce neanche mezz'ora, che è ancora notte, e il lavoro è ancora lungo, e c'è tempo di fumare molte altre sigarette. Non fumare in macchina, spegni! Il primo ufficiale urla in testa ad un attempato portuale che disperde cenere nell'abitacolo di un veicolo nuovo che sta conducendo a terra. Sorride noncurante, per lui il rischio di rovinare gli interni dell'auto non esiste. Senza fumare non si lavora. E ci guarda sorridente e se ne strafotte delle nostre preoccupazioni. Lavorano con il sorriso sulle labbra portuali di Alessandria, guidano auto che non guideranno mai, si fanno continui cenni d'intesa, sembrano dei bambini al Luna Park. Durante le pause, crocchi di uomini commentano i modelli più recenti, apprezzano la linea, discettano di motori, ci costringono ad interrompere il lavoro. Farlo riprendere è un'impresa, una battaglia contro quei sorrisi che non scompaiono mai. Mi sveglio Dopo poche ore di sonno, il sole è alto e il porto appare finalmente nella sua maestosità. Se Ashdod in Israele sembra un avamposto dell'Occidente industriale, Alessandria è avvolta in una patina di ruggine medio orientale. Le gru cigolano, le rare Pacheco sono modelli quasi obsoleti, i container, comunque presenti in gran quantità, vengono sbarcati con le gru a fune dalle benne storpiate dagli anni. Il tempo di permanenza in porto in Egitto aumenta a dismisura. I fuochi delle ciminiere delle raffinerie continuano a bruciare, sovrastano condomini popolari costruiti seguendo una linea irregolare disordinata. È ancora presto, il cielo è impallidito dalle prime luci dell'alba, intorno a noi è tutto un brulicare. La nave, la nostra nave in questo caso, è come una vacca da mungere, anzi da spremere. Sotto la nave, infatti, una miriade di funzionari si accalcano facendo le richieste più strane agli ufficiali e ai marinai di guardia. Vogliono controllare ogni piccola avaria perché può significare sigarette regalate per evitare la minaccia del blocco e il divieto di partenza. Alle volte le sigarette non bastano e non di rado i comandanti staccano corposi assegni perché la burocrazia egiziana non rallenti la corsa dei mercantili. In tal caso però si chiede l'autorizzazione alla società armatoriale tramite il telefono satellitare, che è il cordone ombelicale tra la compagnia e le sue propaggini nei mari di mezzo mondo. Alle 7 di mattina vediamo una fila di persone munite di tavoli e sedie venire a passo spedito verso di noi. Sono capitanate da un egiziano corpulento e calvo che indossa una maglia a strisce dai ghirigori orientali. Si fermano a parlottare sulla rampa. Il canuto sembra il capo. Noto gli sguardi d'intesa e i risolini di sottecchi dei miei compagni. John, il terzo ufficiale, si avvia con il suo solito passo di noccolato verso l'ufficio carico. Il capo banda, canuto, sale sulla rampa e l'apostrofa: «Uè, Munez, tutto a posto!» L'egiziano che ha detto questa cosa si chiama Mustafa ed è una vecchia conoscenza del porto di Alessandria. Parla correntemente il napoletano, l'inglese, il francese e mastica perfino un po' di tedesco. È il ras delle bancarelle di souvenir montate in un battibaleno nel garage, dove auto e altri mezzi continuano a spostarsi. Pezze spiegate su piccoli tavoli traballanti ospitano papiri, sculture in legno, fez, libri di fotografie dozzinali, riproduzioni della biblioteca di Alessandria e piramidi fluorescenti, i ninnoli di un turismo postcoloniale che molti marinai portano a casa come trofei esotici. Italiani e filippini si accalcano di fronte alla mercanzia, valutano la paccottiglia e sfottano i venditori, fanno finta di rubare, vogliono pagare meno di quanto richiesto. Mustafa, il ras, il mestiere l'ha imparato a Napoli, dove il fratello ha ancora 3 magazzini nella zona della ferrovia. Mimmo si chiama mio fratello, è molto famoso a Napoli, io gli organizzo import-export. Conosce gran parte dell'equipaggio della mia nave e tutti lo salutano con affetto. È gioviale, scambia battuti alternandoli a severi richiami verso i bancarellari che alzano la voce. Non vuole stizzire i marittimi nervosi per la notte di lavoro, né farsi notare dal comandante. Mustafa è tollerato, ben voluto, ma non autorizzato. Per lavorare paga i militari egiziani della sorveglianza e i funzionari doganali. I suoi dipendenti, come li chiama lui, li sceglie nell'identica modalità dei portuali. La mattina, in uno dei tanti anfratti esterni alla recensione intorno ai moli. Lui prende una percentuale da ogni vendita, rigorosamente fatta in euro. È tutto un fare tracotante, pacche sulle spalle, strizzatine d'occhio che vanno a finire nello spazio discreto nell'ufficio cargo. Mentre i portuali continuano a lavorare scivolando con le sole lisce dei mocassini sul ferro consumato del cargo, Mustafa organizza una piccola borsa nera di valori, argento e pinnoli di Viagra o Cialis, i farmaci contro l'impotenza venduti sotto banco. Il metallo prezioso non sembra mica di buona qualità, mostra i segni neri dell'ossido, si piega facilmente, troppo facilmente. Ma la cosa non sembra interessare i marinai, che comprano voraci. Invece, gli stimolatori artificiali di erotismo, Mustafa, li vende a strisce di 5, sono pillole blu o rosse. I contenitori di stagnola costano 5 euro. C'è un buon commercio, e non perché ci siano problemi di erezioni diffusi a bordo, no. Perché vengono rivenduti nei porti europei sotto banco per 35 o 40 euro, il che è un bel guadagno. Io resto a sorvegliare il commercio di eccitanti, fumo e offro sigarette, ricevendo in cambio sorrisi sornioni. Poi, d'improvviso, un rumore secco firma ogni contrattazione. Un boato metallico anticipa due portuali dai baffi curati che schizzano correndo dalla rampa del ponte 2 verso l'esterno. Da sopra sento urlare: «Che succede? Che succede?» Scendiamo e troviamo un Dagmaster, un trattore, ribaltato e un container che scivola inesorabilmente verso il basso, andando a ostruire l'uscita del garage. Il driver se ne sta lì con gli occhi spalancati, il respiro affannato e la sigaretta ancora accesa che pendono dalle labbra. Si è salvato per miracolo. Il trattore ha fatto una volée di 180 gradi. La carlinga della cabina è schiacciata al suolo. Il metallo accartocciato rende l'idea del pericolo scampato. Siamo ancora frastornati quando arriva il primo ufficiale che, con fare pratico e marziale, organizza la rimozione degli ostacoli. Riprendono tutti a lavorare, ma imprecano. Il trattore, ormai inutilizzabile, viene trainato a terra, passando rasente alle sedie di legno dei bancarellari divenuti improvvisamente muti. Non riusciamo a trovare due portuali protagonisti dell'incidente. Si sono già dati alla fuga e forse ora se ne stanno a bere un tè all'ombra di un container, come fanno due vecchi in caftano bianco proprio di fronte all'imboccatura della rampa. Una sirena di navi ci distrae. Dietro di noi sta entrando una balena di ferro di colore rosso. È un carro gigantesco dalla prua ovoidale. Sulle fiancate spicca la scritta bianca dal cognome svedese dell'armatore: Wallenius Wilhelmsen. I vichinghi sono tornati nel Mediterraneo. Trasportano automobili e container. La manovra d'attracco è laboriosa, date le dimensioni del cargo, e ci blocca l'uscita, non riesce a sistemarsi. Arrivano non uno, ma cinque rimorchiatori arrugginiti e finalmente riescono a spingerla in banchina. Una volta ferma, la balena comincia a vomitare autoveicoli in serie che sfilano diretti alla nuova e moderna rampa della stazione marittima di Alessandria, costruita di recente dagli sceicchi sauditi. E questi erano Blue Man Group con il brano Up the Roof. Ora si ritorna alla controinformazione con un comunicato che arriva da Atene, dalla Grecia. Però prima di passare al comunicato, ricordo che oggi è 28, quindi dopodomani a Genova si svolgerà il processo ad Alfredo e Nicola, processo in cui i due compagni hanno chiesto il rito abbreviato. Il processo in particolare riguarda giusto solo il reato per 280 CP, che sarebbe l'attentato terroristico. Forse i compagni leggeranno qualcosa in aula, non si sa ancora, quindi l'appuntamento è per dopodomani mattina al Tribunale di Genova. Per chi vuole andarci, sul blog di redazione, sotto il manifesto e il volantino "I conti non tornano" e "A testa alta", c'è pure l'appuntamento, le indicazioni e tutto. Allora, leggiamo il comunicato da Atene, dove è stato bruciato un veicolo del corpo diplomatico. Nelle prime ore di venerdì 11 ottobre 2013 abbiamo bruciato un furgone del corpo diplomatico con targa DC93-3 all'incrocio tra Firas e Delacroix, nella zona di Neos Cosmos ad Atene. L'azione è dedicata con tutto il cuore ai nostri compagni accusati per la doppia rapina a Belventos e a Cozzani, processo che inizierà a fine novembre, ed anche in memoria dell'antifascista ucciso Pavlos Fissas. Non dobbiamo farci condizionare dall'idea della paura e della morte, dobbiamo resistere con ogni mezzo al totalitarismo contemporaneo. Creiamo le nostre strutture, rafforziamoci ed estendiamo le relazioni tra compagni, facendo spazio all'anarchia e al comunismo. Rivoluzione sociale, l'unica alternativa. Incendiari consapevoli. Questa è la firma. Poi sotto c'è un post-scriptum: il processo per la doppia rapina a Vervendos è previsto per il 29 novembre 2013 presso la Corte d'Appello in Lurkareos, Street ad Atene. I compagni accusati sono Andreas Dimitris Bulzokos, Dimitris Politis, Nikos Romanos, Giannis Mikhailidis, Fivos Arsis Polos e Argiris Ntalios. E questi erano i compagni arrestati il 1 febbraio, se ricordo bene, per la doppia rapina a Vervendo e Cozzani. Ora ci ascoltiamo un brano degli Atari Teenage Riot che si chiama Mid Junkies. Poi dopo si torna qui e si farà vari pezzi brevi di lettura della Zantraglia. We'll be right back. junkies! Mini junkies! :30 secondo il nostro illegalissimo orologio di radioazioni, torniamo a bordo del cargo nelle acque del Mediterraneo orientale per sentire che cosa significa avere con noi a bordo in questo spazio ristretto, un po' concentrazionario della nave, un Nostromo Apache. Ci stacchiamo dalla banchina di Alessandria lentamente. Guardo il porto sfilare appoggiato all'estremità della aletta di prua, sopra il moscone, quella parte finale dello scafo emerso. Le ancore emergono dal mare tirando su il fango grigio dei fondali portuali. Dall'acqua esce per prima la catena con le lunghezze segnate da una maglia Kent, cioè non saldata ma apribile, ogni 27 metri. Finita la catena emerge il fusto, il maniglione, la cicala e alla fine le marre. Tutti i pezzi dell'ancora. La cicala è il pezzo mobile che consente all'ancora di girare su se stessa e di non impigliarsi nel fondale. Il fusto finisce la risalita nella cubia mentre filiamo davanti ai cacciatorpediniere, le fregate e i sottomarini di produzione sovietica della flotta egiziana, ormeggiati e allineati quasi alla fine del porto. Sono l'ostentazione di un potere traballante, corrotto e incerto, che mostra le proprie armi come antidoto all'insicurezza sociale ed economica del paese. Subito prima della diga foranea troviamo un cimitero di navi. Scheletri arrugginiti di mercantili sono accasciati nel mare e segnano la fine del porto di Alessandria. Appena fuori veniamo circondati da barconi di legno marcio che ospitano 20 e più pescatori, piccole folle galleggianti che si affannano a tirare su reti piene di pesce. Il cargo si fa largo usando la sirena, due fischi, tre, quattro. I barconi aspettano l'ultimo istante prima di rimettere in moto il motore scalcagnato ed evitare la collisione. Una boa di segnalazione è diventata un nido di gabbiani che aspettano i resti della pesca portuale. A bordo i verricelli di prua strizzano i cavi bagnati, i marinai filippini guardano il porto egiziano allontanarsi, il Nostromo sorveglia attento il lavoro, poi mi raggiunge sulla letta e mi fa: Alessandria, d'Egitto, è uno dei luoghi dell'orgoglio italiano. E si sfila la calottina fluorescente e mette in mostra una t-shirt nera con un teschio che stringe in bocca una rosa e la scritta che sovrasta: me ne frego. Fa un saluto militare verso terra. Non lontano da Alessandria c'è un posto che si chiama El Alamein, un pezzo di sabbia dove le truppe dell'asse furono sbaragliate all'ottava armata del generale Montgomery. I paracadutisti italiani della Furgole, all'epoca, usavano mimetizzarsi in fosse scavate nella sabbia e attaccavano le truppe corazzate in avanzata, alle spalle con mitra e bombe a mano. Il nostro uomo è uomo di mare. Saluta i fantasmi della decima massa che attaccarono il porto di Alessandria con i maiali subacquei, scrivendo una delle rare azioni eroiche della fallimentare supermarina italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Nostromo, che poi altro non è che il capo dei marinai, è un fascista, orgoglioso. Nato mentre i carri armati sovietici invadevano l'Ungheria di Imre Nagy nel 1956, oggi vive in Svezia, possiede due cavalli da corsa, una Jaguar, uguale a quella di Diabolik, e anche una motocicletta Harley Davidson con il serbatoio cromato e personalizzato direttamente nello stabilimento di Milwaukee. E sai che cosa ci ho disegnato sopra? Mi chiede con un tono marziale. La foto di mio nonno. E tira fuori dal portafoglio l'immagine della motocicletta. In effetti sul serbatoio viola spicca una silhouette di un nativo americano. È una Apache, una Apache. Io sono di sangue indiano. Il padre del Nostromo era un napoletano del quartiere di Forcella e aveva un temperamento forte, un carattere bellicoso e fin dalla tenera età con il fratello dettava legge tra i guappi partenopei. Nel 1922 aderisce al fascismo e diventa un mazziere locale. Si fa notare fino al punto di essere portato a Roma, dove trova impiego nell'EAR, una sezione dell'Istituto Cinematografico Luce che si occupava di documentari etnografici. Nel 1926 parte e viene mandato con una troupe negli Stati Uniti, a Phoenix, per girare un documentario sulla riserva Apache. Lì conosce una bella ragazza dalla pelle scura, la sposa, e la porta prima in Italia, poi a Malta e poi nuovamente a Forcella, dove viene alla luce il nostro Nostromo. Con lo scoppio delle ostilità da bravo fascista, il papà del Nostromo si arruola volontario e parte per la campagna d'Africa agli ordini di Rommel. Ritorna sconfitto e si arruola nella decima MAS, con cui ha modo di distinguersi prima nelle squadre sguinzagliate contro i partigiani titini in Friuli, diventando famoso per il taglio degli scalpi, poi nella difesa della linea gotica, dove diventa specialista di decapitazione dei membri delle forze comando inglesi composte dai Gurkha nepalesi. In quel periodo alla Cintola, il papà del Nostromo portava dei portachiavi fatti con orecchie imbalsamate e capelli intrecciati, gli scalpi. Il suo arresto fu opera di Ferruccio Pardi e Giovanni Amendola, figuratevi, e finì per 12 anni nel penitenziario di Procida. Liberato a metà degli anni 50, trasferì moglie e figli in Emilia Romagna, quella che era una volta la culla dei fascisti e che diventò invece l'Emilia Rossa. Il Nostromo mi racconta la sua storia mentre Alessandria si allontana e ogni anno a memoria del padre va a Predappio a rendere onore al duce. Suo figlio, ingegnere informatico in Svezia, ha sposato una donna asiatica, il nipote invece si è accasato con una bella ragazza etiope. Mi viene da pensare che anche i fascisti tutti di un pezzo hanno un cuore nonostante le apparenze, ma immediatamente vengo smentito, colpevole del mio pensiero fallace. E lui mi dice: però un giorno la faremo finita con tutti questi negri pezzenti e fetenti che vogliono passare il mare, ma li vedi? Mi dice indicando uno dei barconi di pescatori che urlano per darsi coraggio mentre tirano su una rete pesante. Guarda là, se vanno scimmie, forse con un po' di fortuna adesso questi finiranno in pasto ai pesci. Le ancore sono ferme, gocciolano ancora, lo scafo rimbalza sulle onde mentre prendiamo il largo. Alessandria avvolta in una nebbiolina fosa, i filippini sono andati a rintanarsi nelle cabine. Una melodia asiatica riempie i corridoi. In coperta sento un marinaio chiamare in inglese il Nostromo. Ehi, bosun, bosun! Lui fa finta di non sentire, tira dritto e poi si gira. E vai a dipingere il ponte, se non hai un cazzo da fare, no? Che mi chiami a fare? Mica sono uno sciamano io. Io mica vedo il futuro. always been and we know now what has to be. It's where you live like there's no rules. Makes it like any day's a good day for dying. Going down, I don't need a reason. In the eyes of fools, living by these rules. Colors and blood are all I have. I don't care if you kill me. Colors and blood are all I have. Whether I die or live, colors and blood are all I have. I don't think about tomorrow, cause tomorrow may never come, may not ever see the sun. I heard him say, as he turned and walked away, this is my way, gonna be no other. Don't try to talk to me, don't even bother. He's not a man, unless he's killed with a gun in his hand. It's just the way it's always been, and we know now what has to be. It's when you live right, there's no rules. Makes it like any day's a good day for dying. I'm going down, I don't need a reason. In the eyes of fools, no, no, no. Living by these rules, because colors and blood are all I have. I don't care if you kill me. Colors and blood are all I have. Whether I die or live, colors and blood are all I have. I don't care about tomorrow. Tomorrow may never come. May not ever see the sun. .18:41 sempre sulle frequenze di Radio Azioni, torniamo a raccontare di Zantraglia precisando: i fascisti non ci piacciono. E adesso passiamo alla Sinfonia Notturna. Non solo non ci piacciono, andiamo oltre, torniamo alla Sinfonia Notturna. Notte in plancia, le luci sono spente per evitare riflessi ingannevoli nella vetrata. Intorno c'è solo mare color pece. Il terzo ufficiale traccia le rotte sulle carte nautiche. L'allievo pasticcia con il telefono cellulare. Il marinaio filippino Joel è semi-addormentato appoggiato al timone, controllato dal pilota automatico. Un gracchiare scomposto del VHF fa da apripista a un coro dei Carmina Burana, sparato ad altissimo volume, che scompare, coperto da una voce roca che salmodia in arabo. Joel si risveglia. Da un cargo russo in radio partono apprezzamenti sessuali sulla madre di chi è in ascolto. Intorno a noi il mare non è vuoto, l'etere ci riporta le presenze nascoste nella notte. Le voci continuano, la radio diluisce il tedio e la solitudine della guardia notturna. Da un cargo greco arriva un sospiro osceno. Marinai cinesi fanno partire un curioso carillon. Un napoletano incita la squadra di calcio e mima il sonoro di una telecronaca di una partita. Poi fa partire la radiocronaca in spagnolo dalla cadenza argentina del gol più bello del mondo, quello di Diego Armando Maradona all'Inghilterra ai mondiali del 1986 giocati in Messico. La mano de Dios. Johnny, il terzo ufficiale, alza la testa dalle carte e sorride con un ghigno stanco. La radio tace e per qualche minuto ripiombiamo tutti nel silenzio. Poi ricomincia il fruscio. Qualcuno risponde con la bocca, i rumori tipici dei disturbi radiofonici, pernacchi, risucchi, brontoli. Filippino Monkey! È l'insulto classico della radio di bordo, si insinua in plancia facendo rabbuiare Joel. Da qualche anno, infatti, è diventato di moda insultare i marinai filippini durante la guardia notturna, da mezzanotte alle 4, dalle 4 alle 8 del mattino, e i filippini restano stoici, in ascolto, ma alle volte rispondono per le rime. ma questa volta Joel ha lo sguardo basso. Filippino Monkey, Filippino Monkey! La radio continua a sussultare insulti nell'inglese con cadenza dei paesi dell'est. John si sposta dal tavolo delle carte. La voce di un cantante neomelodico napoletano copre il sibilo del VHF. Ula di tanto! In plancia c'è un grande stereo portatile affiancato da pile di vecchie audiocassette. I nastri magnetici conservano trasmissioni radiofoniche di emittenti italiani che, ascoltate di continuo, fanno quasi sentire a casa e interrompono la monotonia del mare. Ula di tanto, non dici più niente. Aspetta, A ogni nuovo imbarco qualcuno arricchisce il patrimonio, contribuendo a fare in modo che l'equipaggio possa difendersi dalla nostalgia. Le compilation hanno l'etichetta che riportano sempre lo stesso nome, Radio Italia Network. Altra radio di bordo è il Walkie Talkie. Ogni membro dell'equipaggio esegue il proprio lavoro comunicando tramite la radiolinea portatile. Ognuno ha un codice di inizio e fine. Cargo off indica la fine del carico, libero a poppa prua indica la fine dell'ormeggio e così via. In prossimità dei porti i marinai sono rincorsi dalle voci degli ufficiali storpiate dai piccoli amplificatori. Chissà quanti improperi e bestemmie sono conservati nella memoria dei piccoli trasmettitori. La radio è la voce della nave. Gli atterraggi, le entrate in porto, sono guidati dalla radio del pilota del baracchino del port controllo, così le partenze. Le comunicazioni più importanti invece passano per il telefono satellitare. Le informazioni commerciali, i cambi di rotta, sono nascosti negli incavi delle cornette del motore del satellite. Capita che marinai e ufficiali di notte si cerchino via radio usando linguaggi amatoriali e cifrati, si ritrovano amici di vecchia data e nemici acerrimi che passano ore a insultarsi per nome e cognome. La radio ha onde corte a basse frequenze, che si voglia dire, è la sinfonia notturna dei cargo che affollano il Mediterraneo nascosti nella notte. È una melodia che mescola lingue diverse, suoni improvvisati, registrazione, cazzeggi, insulti. La domenica c'è un resumé notturno dei più importanti campionati di calcio del mondo. Un volenteroso marinaio gli ripete in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo. Bisogna avere però la fortuna di incrociare le acque dove naviga il suo cargo e mantenersi a distanza opportuna per non perdere le sue onde sonore. La radio segnala anche improvvisi intralci alla navigazione, container semiemersi, scali bloccati, code agli stretti, il maltempo capace di disturbare le onde dell'etere con influssi elettrici che hanno origine dal cielo e dalle onde del mare, e anche quei sempre più frequenti blocchi di scioperanti nei porti. La sinfonia diventa muta di giorno, quando gli ordini di servizio la fanno da padrone e le comunicazioni serie prevalgono sulla creatività dell'etere marino notturno. I marinai lavorano e nessuno vuole farsi sorprendere nella caccia alla scimmia filippina, Filippino Monkey. When everybody's heard about the bird, bird, bird, bird, bird is the word. What bird, bird, bird, bird is the word. What about that bird? Bird is the word. What? Le 18:50, chissà dove, chissà quando, questi erano i Ramones con Surfing Bird. Torniamo adesso per mare per sentire la storia del derby nel garage. A terra, per rendere le dimensioni dei cargo, si ricorre alla metafora del campo di calcio. La nave su cui siamo a bordo misura due campi di calcio, quell'altra che vediamo lì in lontano, tre. Un'altra 2,5, un'altra 4 e così via. Però a bordo non ci sono reti, né pali, né traverse, ma si trova il tempo e lo spazio per giocare comunque al calcio, l'oppio dei popoli. Ci sono partite diventate delle classiche. Macchina contro coperta, Italia contro Bulgaria, Italia e Romania, dipende dalle nazionalità presenti a bordo. I filippini, che non amano il calcio, preferiscono il baseball americano, il gioco che molti europei hanno difficoltà a seguire perché è incomprensibile ai nostri occhi. Ad Alessandria d'Egitto abbiamo sbarcato la metà dei nostri container e il garage sotto il livello del mare ora è quindi semivuoto. Fa caldo, l'aria è densa, è satura di fumi che stentano a salire verso l'alto. Gli aereatori funzionano a intermittenza. Il cargo ora è a largo sulla rotta verso la Turchia. Procede deciso, doma le onde. In lontananza due petroliere incrociano e viaggiano di corsa verso la Libia, quella prima di Gheddafi. Scendiamo in tuta sportiva. Sotto indossiamo maglietta e pantaloncini corti. Siamo in 10, 5 di macchina, 4 di coperta e il driver. Il pallone di cuoio a scacchi bianchi e neri rimbalza sul pavimento e sul soffitto. Le porte del calcio sono segnate dalle nostre borse come in una qualunque piazza popolata da scugnizzi. Giochiamo 5 contro 5 con il portiere volante. Io e il driver siamo i più anziani e quindi ci sistemiamo in difesa tra portiere e libero. In campo mi ispiro a un giocatore franco-armeno di diversi anni fa, si chiamava Yuri Djorkaeff. Provo a fare gli scatti che finiscono prima di iniziare. Sono a disagio perché è come correre chiusi in una scatola. Il driver invece prende a modello un altro giocatore da tempo, non più in attività, il difensore brasiliano Roberto Carlos. E lo fa perché anche lui, come Roberto Carlos, ha un aspetto bello tracagnotto. Perché lui sta sempre seduto sui sellini dei mezzi di bordo, il forklift e il top lift, che superano entrambi le 30 tonnellate. Guida anche i muletti e i Dagmaster, macchine più leggere. Il suo è un mestiere dai pochi movimenti e molto sforzo mentale. Prima di mettere in moto i trattori bisogna stare bene attenti al calcolare il peso della motrice e il contrappeso del carico in modo tale da evitare di rimbalzarsi. Lui aggancia con i muletti e i trattori vari i Mafi Trailer, che poi sono delle slitte per grandi pezzi e per i container, con il gooseneck, il gancio a becco d'anatra, e poi inizia a spingere sulle leve e sul volante. Quando guida sembra che stia portando il peso sulle spalle, assume un'espressione sofferente, respira male e suda. Anche lui ha l'ossessione del container e forse lo sente su di sé. Adesso però che abbiamo iniziato la partita, capitombola sul ferro del garage tentando di fare uno stop elegante che non gli riesce, e goffo mentre si rialza. Riprendiamo a giocare. Siamo sotto di 5 gol della coperta, segnati dal primo ufficiale, 3, e dall'allievo di macchina, che ne ha fatti 2. Il primo ufficiale è un atleta fascista. Fa il ciclista ed è sempre attento al suo peso forma. Infatti 3 volte alla settimana sostituisce la cena con delle bustine di carboidrati liofilizzati o in gelatina. È un tipo agile, però dotato nel dribbling molto poco, ma ben piazzato, tant'è vero che vince tutti i contrasti di gioco. Anche sul lavoro dimostra piglio e autoritario al punto giusto, è un estimatore delle regole e della serietà. Alle sue spalle invece si sono accumulati non pochi mugugni nel corso della carriera, che inevitabilmente è stata rapida e brillante. Il primo ufficiale non ha che 27 anni, forse è vero che in mare anche l'età si accettano prima che da terra. Per mantenersi in forma ha montato una bicicletta da competizione in fibra ultraleggera su un piedistallo, privandole delle ruote. Ha sistemato il marchingegno in un piccolo pianerottolo dalle scale che portano al triangolo del ponte di Prora, un angusto angolo di metallo, un posto solitario dove lui corre, pedala, attraversando il suo panorama personale fatto di fotografie, cartoline di paesaggi, amici, ragazze, scolpiti nel cartoncino, che lo accompagnano nelle sue pedalate immobili e solipsistiche in mezzo al mare. Adesso calcia una punizione dal limite. Una zigrinatura del pavimento devia la traiettoria e la palla va ben fuori lo specchio della porta. Sbatte con violenza e inizia una carambola. John, il terzo ufficiale, si butta di testa ma manca il bersaglio. Il primo di macchina rumeno riesce a smozzicarla di petto. Il secondo di macchina, il corazziere che fa jogging di notte per tutti i corridoi, prova a fermare la sfera con le mani ma la palla gli scivoli. Invece il meccanico filippino, con una bandana da pirati fin sopra gli occhi, la stoppa, un gran tocco d'interno con la palla che si impenna, e lui poi inizia a fare palleggi con la testa, poi passa la sfera ad un altro con una Veronica da antologia. Il pallone è ormai unto e scivoloso a furia di prendere calci su un terreno di gioco fatto di olio, nafta e sputi. Riprendiamo a giocare con una rimessa con le mani. Johnny riceve, fa un traversone a mezza altezza. Giacomo, l'allievo, è il pupo di Roma, rotola e chissà come spicca un balzo, colpisce di testa e gonfia la rete. Gol, gol! Poi corre come un ossesso per il garage, saluta il pubblico assente, è felice. Noi tutti lo guardiamo ansimando. Certo che romano sei, si vede che sei romano perché sei tutto scemo, gli dice Enzo, l'allievo di macchina che viene da Messina, siciliano. Oh, guarda che temeno, hai capito? Basta a fare lo stronzo, basta macchinaro. Oh Roma, suca, suca! Neanche finisce di parlare che Giacomo gli è già addosso, picchia duro, la lotta si accende, ci stringiamo in circolo, qualcuno incita. Il siciliano tira la box a casa, adesso gli fa un culo così al romano, dice qualcuno. Con 2 colpi tirati da vero boxer, in effetti, il messinese fa uscire sangue dal naso, già che è già a patata del romano, e che risponde rabbioso con bracciate vibranti ma sconnesse. Acchiappa le mosche, talia! Lo provoca Enzo. L'altro cade nel tranello e gli sbatte sempre di più. Si lancia a peso morto, ma ogni volta i suoi attacchi vengono rintuzzati con pugni precisi e dolorosi. Enzo lo punzecchia di continuo, come fa per muovere le bestie con il bastone elettrico. Il garage sotto il mare si riempie di urla e grugniti. Poi il primo ufficiale interrompe imperiosamente il match ed evita che la situazione trascenda ulteriormente. Adesso il problema è tenerli lontani, divisi. I macchinisti scortano Enzo verso la rampa d'uscita, portano via le borse e contrassegnano la nostra porta. La partita è finita. Quelli di coperta, eccitati allo scontro, accusano Enzo di aver provocato la rissa. La macchina fa scudo intorno al proprio campione, assumono la posizione d'attacco con i pugni all'altezza del viso. John, il terzo, gli lancia una bottiglietta di plastica dalle retrovie senza esporsi troppo. Può essere il gesto che dà il là ad una rissa liberatoria, una resa dei conti finali tra persone che non hanno così tanti motivi per scannarsi. Ma in mezzo al mare basta un attimo, una piccola scintilla. Il primo ufficiale allora interviene con maniere rudi, minaccia rapporti sulle note caratteristiche dei libretti di navigazione, cosa che renderebbe assai difficili i futuri imbarchi. La tensione cala rapidamente. I macchinisti si allontanano in un niente. Johnny riprende la bottiglia e beve un sorso d'acqua incurante del collo di plastica lerce di nafta condensata. Abbiamo perso 7-1, non c'è stata storia. Quello di Giacomo era il nostro primo gol. Ecco, oggi finisce qui la diretta d'azione. Ti ricordo che il prossimo appuntamento con Radiazione è le dirette radiofoniche, è per venerdì prossimo, che ne abbiamo 1 novembre, venerdì prossimo 1 novembre, con la controinformazione e la musica. Ricordo velocemente gli indirizzi per Radiazione, che ho dimenticato di dare all'inizio: radiazione@distici.org per la mail, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di comunicato scritto, iniziative, manifesti, giornali, ma anche consigli sui libri da leggere, anche pareri sui libri che si stanno leggendo, insomma. radiazione@distici.org invece per il blog, dove potete andarvi a leggere la controinformazione. E da ieri sera si è ritornati ad aggiornarla quasi quotidianamente, oppure riascoltare le vecchie dirette d'azione o scaricarvi opuscoli, manifesti, musica e roba varia. radiazione.noblogs.org. Allora, per la radio la state ascoltando, quindi è inutile dirvi come accenderla, altrimenti il link è radiazione.listentumaradio.com, altrimenti dal banner che trovate sul blog ci cliccate sopra e vi si appiccia la radio. Quindi appuntamento a venerdì prossimo 1 novembre ore 17. O morte o insurrezione. informazione, letture, provocazioni, musica. Informazione, letture, provocazioni, musica.